La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, 16:34 primi 44 secondi, quindi diretta di su di Radio 24 di Milano. Grazie a chi continua a seguirci anche non solo in diretta ma in podcast, caricandoci quando può. Continuate naturalmente a farlo. Oggi abbiamo un ospite che ci ha scritto, uno dei tanti, tra l'altro continuate a farlo, perché vedete che il più possibile io dedico le puntate a chi non ha voce o chi ne ha meno, insomma, scegliendola tra i tanti che ci scrivono. Vi ricordo che l'indirizzo è la voce di Oscar, perdonatemi, la versione di Oscar tutto attaccato, @radio24.it, e questo vi consentirà di esporre il vostro problema, il vostro caso, la vostra opinione qui direttamente alla nostra trasmissione. Oggi un imprenditore che ci ha scritto, un imprenditore che sta animando da settimane una protesta che ha un impatto sui media, però non riesce a smuovere la situazione in cui si trova. E a dirvi la verità, siccome la situazione che si è creata e che gli abbiamo chiesto di raccontarci ai microfoni oggi riguarda quello che abitualmente viene considerato, descritto, invidiato e anche secondo me giustamente criticato per la quantità di spesa pubblica che c'è, ma viene descritto abitualmente come una specie di angolo di paradiso, la Val d'Aosta, allora si è raddoppiato in media interesse. Perché la Val d'Aosta, poi, per chi la considera solo da lontano, certo, è un posto strepitoso, le montagne, il turismo, la crescita, niente di paragonabile a come ha morso la crisi altrove in Italia, la quantità di spesa pubblica, stiamo parlando di una regione che insieme alle due province, Trento e Bolzano, ha il maggior addensamento di spesa pubblica pro capite grazie al regime straordinario dell'autonomia, ottenuto nell'immediato secondo dopoguerra, quando c'erano problemi di confini, di minoranze etniche e così via. Io sono l'idea, per esempio, che le autonomie speciali vadano superate in blocco, perché quelle ragioni storiche che avevano un fondamento sono oramai iper superate rispetto ai problemi rilevanti italiani e rispetto al fatto che mi pare un po' ingiustificato che minoranze oramai ben integrate e così via eccetera abbiano per questo dei dislivelli a loro favore di spesa pubblica e risorse che il resto del paese, giustamente o ingiustamente, come volete, ma si sogna. Però proprio perché c'è dietro il particolare intreccio della vita politica e amministrativa valdostana, che a me è sempre sembrato, lo dico da piemontese trapiantato altrove, molto asfittica, come un sistema un po' unidirezionale, teso ovviamente a difendere le particolarità dell'autonomia, ma per questo poco soggetto a quei cambiamenti d'aria che fanno bene alla democrazia, alla trasparenza, all'utilizzo efficiente e responsabile delle risorse, a maggior ragione, guardando questa storia, mi sono detto vale la pena di chiamare l'imprenditore e farla raccontare. Quando dicevo di un imprenditore che fa parlare di sé, vi ricordo solo questo: a marzo è salito su una gru, la sua è un'impresa di costruzioni, lavora nel pubblico, quindi capirete che qui stiamo parlando non solo di ritardati pagamento ma di peggio, ma questo ce lo racconta lui. È salito su una gru, quindi la cosa ovviamente ha fatto molto rumore, e pochi giorni fa ha appeso un manichino alla stessa gru e parecchi, vedendolo da lontano, credevano si fosse suicidato. Invece ha trovato una strategia un po' alla Catalan, per così dire, creativa, per tornare a protestare e fare capire che nel frattempo non si era risolto nulla. Però meglio di me ci può raccontare lui questa particolare vicenda in un particolare angolo d'Italia, dove non per questo le cose vanno poi troppo meglio che altrove di fronte all'opacità amministrativa. È con noi questo pomeriggio Costantino Morana, imprenditore torinese, titolare dell'azienda che si chiama Cogeim. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio. Iniziamo subito a raccontare. Allora, sei un'impresa di costruzioni. Quanto fattura e nella crisi quanto vi ha morso? Quanto fatturava? Circa un paio di milioni all'anno prima di iniziare con le opere pubbliche, perché sì. Noi intanto mi preme ringraziarla per avermi dato voce, ma questo va bene, ma iniziamo a raccontare questo, diamolo per assodato, è qua quindi può parlare. Allora, 2 milioni che poi detto questo, noi fatturavamo circa un paio di milioni, lavoravamo solo in opere private, quindi costruivamo per rivendere noi i nostri immobili. Poi la crisi purtroppo ci ha portato a fare lavori e opere pubbliche, E grazie a Dio un bel giorno siamo stati così fortunati dal vincere, mio caro dottore, la prima opera pubblica, Giannino, che era proprio quella. Sì. Esatto. Un'opera pubblica che dove? Dove stiamo? Allora, dove siamo? In comune di Perloz. Si tratta di un'opera per la costruzione, l'ampliamento e ristrutturazione di una casa di riposo per anziani in comune di Perloz. L'ente committente è la comunità montana Monrose. Tutto ha più o meno, dico più o meno perché è chiaro che l'aria, quando abbiamo vinto noi che siamo forestieri, ho avuto subito l'impressione che fossimo, come dire, fra virgolette degli intrusi, no? Perché è chiaro che, come dice lei, c'è l'aria buona, si sta bene, c'è un bel paesaggio, ma gli estranei non sono proprio così ben visti. Ma voi avete vinto una gara facendo condizioni di cose, massimo ribasso? No, assolutamente no. Sì. Guardi, Giannino, noi abbiamo partecipato a una gara che era questa formula nuova, economicamente più vantaggiosa, quindi veniva premiato in parte le migliorie al progetto proposto dall'impresa, oltre a una parte di sconto, e quindi la somma dei due punteggi ci ha portato a vincere. Chiaramente in sede di apertura delle buste, con grande esclamazione del responsabile unico del procedimento, si era stupito per il modo in cui noi eravamo riusciti a vincere, per l'eccessivo ribasso. Ci tengo a precisare che in termini di sconto medio noi abbiamo proposto un ribasso pari al 24%. Tenga conto che in giro per l'Italia noi vediamo gare che girano al 50, sì, al 45, sì, al 40. Quindi il ribasso del 24 ci sembrava un ottimo affare in una regione dove è previsto e normalmente pagano. Quella sera noi abbiamo in ufficio festeggiato perché eravamo stati così fortunati. Nulla di tutto ciò non fosse mai stato, perché in realtà poi la mattina che inizi a lavorare cominci a prendere in mano la questione e cominci a guardare le opere. Chiaramente ti accorgi di un po' di questioni che non vanno, però se non sei abituato e non sei, come dire, un assiduo partecipante alle opere pubbliche, non sai bene come funziona e non capisci che non devi, perché nel nostro paese non bisogna lavorare per fare le opere pubbliche. Ma perché? Cos'è iniziato ad accadere? Diciamo i fatti. È successo che chiaramente su tutti i progetti, chiaramente fra virgolette sempre, sui progetti c'erano dei problemi di tipo progettuale, con delle cose che bisognava forse approfondire. Poi questa cosa qua chiaramente fa scaturire un insieme di problemi che giornalmente venivano rivisti con la direzione lavori. Se noi fossimo stati così esperti, dal primo giorno avremmo iniziato con un buon avvocato a scrivere delle riserve e a chiedere delle varianti e a fare a puntare i piedi e a bloccare i lavori, perché questo è quello che succede in tutto il resto del paese sulle opere pubbliche. Ecco perché ci si impiega 3, 4, 5 anni. Noi invece abbiamo pensato di andarcene a lavorare, di cercare di fare il lavoro come fosse stata un'opera nostra, con la speranza che chiaramente questo ci sarebbe stato riconosciuto. Esatto, riconosciuto con lo stesso modo, ecco. Quindi diciamo, per capirci, sì, una volta vinta la gara e iniziati i lavori, vi trovate di fronte alla direzione lavori che vi chiede delle varianti d'opera, quindi naturalmente degli oneri maggiori, che non fanno parte però del capitolato di impegni sottoscritto per cui voi avete vinto, e voi iniziate a farle dicendo tanto poi ci verrà riconosciuto. Faremo una variante, questa era la promessa verbale, faremo una variante e cercheremo di farvi recuperare. È chiaro che questa cosa qua è andata avanti per un periodo di tempo, poi tu sottoscrivi il primo stato avanzamento lavori, perché nel frattempo noi andavamo velocissimi, lavorando nel privato. Siamo abituati che un cantiere, per guadagnare, per permetterci di guadagnare, deve durare il meno possibile. Quindi, andando velocemente, abbiamo sottoscritto il primo SAL senza apporre riserve alla contabilità. Dopodiché siamo andati avanti al secondo SAL. È chiaro che sapevamo anche, se questo avessimo fatto, di scrivere delle riserve facendo delle richieste, avremmo sicuramente messo in grossa difficoltà il nostro direttore lavori, che era peraltro la stessa figura del progettista. Quindi lei capisce che la persona con cui tutti i giorni ci interfacciamo in cantiere, se si sente sollecitato e messo in discussione dall'impresa, cioè, mi sembra chiaro a chiunque che sarebbe chiaramente mutato lo stato della collaborazione. E diciamola, quindi, tutta, questo progettista, nonché direttore dei lavori architettonico, sì, porta un cognome che nella vita politica, certo, valdostana è di un certo peso. Ecco. Esattamente, ma non solo, perché poi oltre a lui, che ha quel cognome lì, no, diciamolo però, perché non è che altrimenti la gente, cioè, no, tanto lei lo ha detto mille volte, qui stiamo parlando, no, del figlio, no, del senatore Dujani, quindi grande figura di Dujani, sicuramente discendente, io non so bene nei rapporti di parentela, perché comunque un cognome importantissimo, posto, assolutamente, nella politica valdostana, assolutamente. Ma il collega di studio, per l'altra parte, che era il responsabile della sicurezza e il direttore lavori delle opere strutturali, perché tutte queste cose poi le scopri dopo, sì, e l'ex, ho scoperto da qualche giorno, solo più ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta, quindi capisce bene che parliamo di un contesto dove chiaramente l'intruso, io, il piccolo, quello rischia veramente di farsi male, è quello che mi è esattamente successo. Comunque, morale della favola, noi siamo andati avanti per un po' di tempo con questi lavori, sopportando e supportando le richieste della direzione lavori, fermo restando che le nostre erano cose tutte evidenziate, è chiaro, non formalizzate, e questa è assolutamente la nostra colpa, che invito tutti i colleghi che ci stanno ascoltando a non commettere lo stesso errore. Assolutamente. Morale della favola, a un bel momento ci siamo decisi a dire no, adesso bisogna mettere fine a questa cosa. E avete chiesto a un avvocato, ecco, di metterla per iscritto la riserva. Eravamo a gennaio 2013 a questo punto. Sì, no, era un po' prima, era più o meno novembre, Giannino, del 2012, e a quel punto lì, quando noi abbiamo scritto le riserve al terzo stato di avanzamento dei lavori, di tutta risposta, il direttore lavori ci ha risposto semplicemente che le nostre riserve erano tardive, e quindi cancellando in un istante tutto il dovuto, pari a circa 450-500 mila euro. Lei può chiaramente capire qual è stata la reazione. Di questo noi abbiamo preso coscienza, le dico, era il 28 dicembre del 2012 che lui ha depositato le sue controdeduzioni alle nostre riserve. Allora, ci fermiamo qua per 60 secondi perché abbiamo l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:50, primi 7 secondi. La storia che ci sta raccontando l'imprenditore torinese, si chiama Costantino Morano, la sua impresa è la Coge Imma, la storia di lavori pubblici nella comunità montana in Val d'Aosta, la comunità montana di Montrose. Avete sentito l'inizio, vincono la gara, iniziano a lavorare, però poi nel corso dei lavori gli chiedono, la direzione dei lavori gli chiede di fare delle varianti d'opera. Loro non mettono per iscritto il fatto che sono varianti e quindi vanno riconosciute all'impresa nella realizzazione, vanno avanti solo al terzo stato di avanzamento lavori, fanno presente che qua ci sono 450 mila euro di differenza, e a quel punto la comunità montana dice no, la vostra richiesta è infondata, siamo arrivati a questo. Dopodiché uno pensa, va bene, al di là della prima risposta, caro Costantino, la comunità montana l'avrete contattata, avrete visto se c'erano le possibilità di un accordo bonario, di un riconoscimento di che tipo, eccetera eccetera. Invece cosa succede? Bravissimo, ma in realtà loro peraltro non ci hanno mai detto che sono infondate, perché questa sarebbe stata comunque la risposta che io mi aspetto, no? In un paese civile come quello che diciamo di vivere, mi aspettavo, se erano infondate perché le opere non fossero state eseguite, nulla da dire, ma se tu mi rispondi che sono tardivo nella richiesta, e questo non può che fare infuriare una persona a modo e onesta come me, che purtroppo ha lavorato duramente per tutti questi anni e che in 10 minuti ha visto cancellare 20, anni di durissimo lavoro. Quindi a quel punto abbiamo cominciato a scrivere tramite un legale per chiedere un incontro per vedere, perché c'è tutta una procedura che si chiama del tentativo dell'accordo bonario, sì, per cercare di risolvere questa vicenda bonariamente. All'incontro, premesso che di nuovo il responsabile unico del procedimento della comunità montana ci rispose che non ravvisavano le possibilità di fare l'accordo bonario, comunque ci ha convocato ad un appuntamento di nuovo abbastanza informale che si è tenuto presso la sede della comunità, alla presenza del mio legale, dell'ingegnere che aveva collaborato con noi per scrivere queste riserve. E in quell'occasione? E in quell'occasione di tutta risposta questi signori seduti intorno a un tavolo, uno che ti chiede 460.000 euro, ci hanno offerto fra 4 e 40.000. Lei può immaginare qual è lo stupore, posto che dal pubblico, quando io penso che in un'altra stanza, in un altro posto d'Italia qualcuno offre dei soldi a un'impresa, io mi auguro che ci sia qualcuno che dica: quelli che ti sono dovuti sono 13, 15, 18,26 più IVA, non fra 4, noi li offriamo fra 4 e 40 mila. Io risposi che quello era il modo con cui mi trattava la mamma tanti e tanti anni prima, cioè quando mi diceva: se fai il bravo ti do una caramella, se sei bravissimo te ne offro 3, ecco. E quindi io non potevo accettare una cosa del genere. E in quella seduta dissi pubblicamente, alla presenza dell'avvocato della comunità montana, dei due direttori lavori, del collaudatore, dissi: guardate che io non ho più la forza di poter continuare. L'avvocato della comunità montana mi disse molto apertamente, dice: lei tutto può fare meno che quello, perché noi le risolviamo il contratto e la facciamo morire, perché ti toglieremo tutto quello che hai, proprio in questi termini e in questi modi. E a quel punto però, siccome io non avevo più assolutamente più nulla da metterci sul piatto per mandare avanti quei lavori, fermo restando che non mi sarei fidato di ricominciare delle opere, quindi io ho dovuto fermare e interrompere i lavori, e loro mi hanno risolto il contratto. Le hanno risolto il contratto a maggio del 2013, nel frattempo i lavori erano sospesi. Risoluzione del contratto, i lavori erano sospesi anche lì, perché in realtà loro dicembre, gennaio e febbraio era previsto che si interrompessero i lavori per le cause climatiche, no? Certo. Perché in Val d'Aosta, certo. Ma quello è sempre una cosa relativa, perché noi nelle fasi lavorative in cui eravamo all'epoca di novembre-dicembre 2012 non avevamo necessità di fermarci, noi ci eravamo fermati proprio per permettere allo studio dei progettisti di apporre quelle varianti per rimettere mano al progetto e rimetterlo in ordine per permetterci poi di lavorare con dei progetti funzionali in buona sostanza. Quindi comunque ci fermiamo, dopodiché io a febbraio alla ripresa dei lavori non ce la facevo più e ho cercato di dire che stavo fermo per le cause climatiche, ma era un modo per prendere del tempo perché speravo che comunque rivedessero le loro posizioni. Morale della favola, risoluzione del contratto, richieste da anni, poi non le dico nella parte amministrativa i vari pasticci che hanno fatto, no? Perché risoluzione del contratto, richiesta da anni all'assicurazione, perché noi avevamo consegnato una fideiussione assicurativa all'ente alla stipula del contratto, loro hanno chiesto di incassare la polizza con la motivazione, senza fare un elenco dei danni, scrivendo che siccome non avevamo compiuto le opere, in pratica incassavano tutta la polizza, come quindi se mi fossi fermato al primo giorno il danno sarebbe stato ancora più, cioè le dico tutto anche nella parte amministrativa ci sono di quei pasticci incredibili. Il problema è che il mio avvocato dice: senti, facciamo una causa, intentiamo una causa nei confronti della comunità montana e personale nei confronti dello studio. Il problema è che io in un momento così, dove sono rimasto praticamente senza nulla, non ce la faccio a far lavorare un avvocato in una causa di quel tipo. Mi domando quale consulente che potrebbe chiedere certamente il Tribunale della Valle d'Aosta firmerebbe contro i colleghi dell'ordine Sono circa... Anche perché tanto per dirne uno, il presidente della comunità montana, della comunità montana è non solo consigliere comunale, assessore alla cultura, istruzione e gestione finanziaria a Pont Saint Martin, ma è anche il dirigente responsabile di tutto il personale dipendente della regione Valle d'Aosta. Ecco, Valle d'Aosta è un po' così la faccenda. Dopodiché, tanto per essere più sintetici e andare al punto, un'impresa che deve succedere a quella dell'imprenditore Costantino dopo la risoluzione del contratto, guarda caso è un'impresa di quelle che in Val d'Aosta vince praticamente una percentuale elevatissima delle gare, si chiama Dolmen e così via. Allora, noi avevamo delle telefonate anche di tecnici del settore, però non abbiamo mandato in onda. La mia speranza è che qualcuno in ascolto capisca che cose come queste in Val d'Aosta non si possono risolvere tra amici e parenti, perché qui c'è un'impresa che, di fronte alla tardiva messa per iscritto delle varianti che però realizzava, finisce, fallisce, va per strada, perde la gente perché ha sbagliato a non mettere per iscritto, ma loro hanno sbagliato a farle fare senza averle messe nel bando di gara. Val d'Aosta non è una repubblica autonoma. Continuate su Radio 24, grazie Costantino, non ti deprimere e appuntamento a domani.